9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati dallo studio. Oscar Giannino torna a salutarvi, augurarvi un buon una buona vigilia di Ferragosto, e tratta un tema insieme a voi oggi, chiedendovi di intervenire, di dirci la vostra e di fare delle domande ai nostri ospiti che vi presenterò tra poco, chiamando all'800 24 0024 per gli sms. Il numero è 349 238 6666. Le mail a 9@radio24.it. Di che cosa ci occupiamo di oggi? Dando per scontato, e anzi augurandomi che molte di voi siano per spiaggia o sulle spiagge, io no, noi no, ma molti di voi sì, e volevamo fare un punto su un tema che quest'estate nei media italiani è stato un po' trascurato, perché abitualmente d'estate era un classico, uno di quei tormentoni che animava sempre aperture e pagine interne di cronache estive, e cioè le cronache sui venditori abusivi sugli arenili, sulle spiagge, molti dei quali migrati, molti dei quali anche non in regola con i permessi di soggiorno, ed eravamo abituati da anni a vederle chiamate nei titoli come i cosiddetti VCUMPRA, un'espressione che a me non è mai piaciuta, ma insomma era entrata stabilmente nel colloquiale gergo italiano. E la domanda è: quest'estate che cosa è stato di questo fenomeno sulle spiagge italiane? È tale quale prima? È aumentato? È diminuito? Ci sono nuove forme di contrasto che hanno avuto più successo? Aiutano anche le nuove norme di sicurezza e il giro di vita sull'immigrazione clandestina? I comuni si sono organizzati meglio? Ecco, allora abbiamo deciso su questo tema di sentire un po' di esperti. Chiediamo anche voi la vostra opinione. Io intanto registro come una cosa che non mi dispiace troppo il fatto che ci siano meno titoli di solito sparati su questo argomento. In qualche misura è un tema con cui dobbiamo imparare a convivere, con un occhio molto attento naturalmente alla lotta contro la contraffazione dei prodotti commerciali, ma insomma è un classico fenomeno di un paese che scopre improvvisamente da un anno all'altro l'esplosione di immigrazione, poi la disciplina mette alla luce norme più efficaci nel contrasto. Vediamo insieme a chi abbiamo ascoltato e insieme a voi se davvero siamo a questo o semplicemente invece è un fenomeno come prima e più di prima che scorre su tutte le spiagge come una specie di fiume carsico. Allora abbiamo qui con noi innanzitutto una collega del Sole 24 Ore che segue stabilmente anche i problemi dell'immigrazione clandestina e della lotta contro la contraffazione, ha anche dedicato un libro su questo, Rita Faticuso. Buongiorno Rita. Ciao Oscar, ciao a tutti quanti. Poi abbiamo, ecco, lei sì è stata invece una protagonista in queste settimane, perché è la nuova presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. E io le do subito la parola, dopo che ho finito di presentare gli ospiti, perché insomma lei ha dato il giro di vita, l'ha dato almeno. Poi abbiamo con noi, aspettate un secondo, stamattina si vede che ho bisogno anch'io naturalmente di qualche momento di coso. Ecco, mentre mi riorganizzo, Zacca, presidente, ci dice come mai lei appena eletta ha annunciato subito di voler mandare la polizia provinciale sugli arenili e in città? A suo giudizio il fenomeno invece era in aumento ed è questo il modo più efficace secondo lei? Sì, non era il mio giudizio, era comunque una segnalazione che proveniva dai sindaci delle città di litorale, quindi in maniera particolare da Jesolo. E questa nuova forma di contrasto lei la imputa al predecessore di non averla fatta? Perché secondo lei? Ma la nuova forma di contrasto è stata data già quando io ero in campagna elettorale, più volte i giornali erano stati invece interessati a questa presenza significativa di soggetti extracomunitari che riempivano le spiagge, creando anche una serie di problemi alla presenza turistica che c'era nelle località. E quindi durante il periodo della campagna mi fu proprio richiesto specificatamente dalle località balneari che la provincia potesse diventare un soggetto, un'istituzione che si faceva carico anche di questo problema, in un'ottica che vuole vedere la provincia con un ruolo di coordinatore di quelle che sono le realtà locali. E quindi, primo, perché siamo consapevoli che il problema c'è, che il problema è aumentato; secondo, perché abbiamo deciso che non possiamo lasciare soli i nostri comuni di fronte a un problema che viene definito chiaramente di sicurezza. Ora vi presento altri due ospiti. Abbiamo con noi Michele Biagi, il sindaco del comune di San Vincenzo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi e buon Ferragosto. E poi Benedetto Della Vedova, deputato PDL, liberista, e quindi con Benedetto Della Vedova. Buongiorno Della Vedova. Buongiorno. Volevo poi fare un ragionamento complessivo su questo fenomeno. Invece l'impressione del sindaco del comune di San Vincenzo, e quindi litorale toscano, qual è? Questo fenomeno è in via di diminuzione dalle vostre parti, di aumento? Come l'avete contrastato? Sì, ci sono chiaramente diversi tipi e diversi modelli di venditori abusivi. Ci sono, a mio modo di vedere, stati tre fenomeni nel corso di questi anni, anche nelle nostre zone, soprattutto nel momento in cui c'è una maggiore presenza turistica, gli abusivi che praticamente sostavano in modo nei nostri parchi, nelle nostre dune, o gli abusivi che vendevano attraverso proprio una sosta non autorizzata, quindi occupando gran parte dell'arenile, vendevano prodotti praticamente anche contraffatti. Devo dire che su questi due punti abbiamo ottenuto dei grossi risultati in questi 4 anni, attraverso proprio un forte coordinamento dalle forze dell'ordine, partendo praticamente dalla nostra Polizia Municipale, la Delegazione Marittima, Guardia di Finanza e Carabinieri, e interessando anche le guardie venatorie della provincia di Livorno. È stato un intervento, come dicevo, importante, che ha portato dei risultati fondamentali. Sono d'accordo con il Presidente della provincia di Venezia nel ribadire, insomma, che il fenomeno comunque del venditore abusivo è un aumento per quanto riguarda la parte itinerante, e su questo chiaramente noi stiamo intervenendo quest'estate rafforzando ulteriormente i controlli. Infatti sono aumentati i sequestri di materiale anche contraffatto, e poi chiaramente stiamo predisponendo un regolamento che attiveremo nella prossima stagione, dove attraverso un bando pubblico autorizzeremo la vendita itinerante sull'arenile. Ora vediamo, rilasciando quante concessioni, ecco. Però chiaramente dal prossimo anno noi dobbiamo stoppare del tutto questo evento, almeno sul nostro litorale, che è lungo praticamente 11 chilometri. Quindi se mi pare di capire che la vostra idea è quella di procedere a una graduale regolarizzazione attraverso una verifica, per così dire, dei titoli. Bravissimo, bravissimo. Come facciamo i bandi per il commercio sulle aree pubbliche, quindi dei bandi dove bisogna praticamente accedere attraverso chiaramente dei criteri di qualità, ma anche dei criteri per quanto riguarda i prodotti venduti, come lo facciamo sulle aree pubbliche? Dal prossimo anno lo faremo praticamente anche sul demanio marittimo, perché praticamente anche questa è una parte di proprietà, insomma, della comunità e del pubblico, e qui c'è bisogno proprio di dare una regola precisa, quindi individuare e rendere ben visibili coloro che saranno autorizzati a vendere in forma itinerante sul litorale della costa di San Vincenzo. Ora io vi informo, cari ascoltatori che magari siete in spiaggia, che nel caso in cui vi fosse un controllo e voi risultaste al controllo come acquirenti di prodotti da venditori clandestini, non in regola poi per di più i prodotti con le norme sul marchio, ma magari prodotti contraffatti, voi sareste direttamente, voi acquirenti, esposti a una sanzione che secondo la legge 80 del 2005 va da 3.335 euro fino a 10.000 euro. A me non risulta, a dire la verità, abbiamo fatto una ricerca sui giornali, non mi risulta che questa sanzione sia mai stata adottata in queste proporzioni nei confronti degli acquirenti, anche perché fatto sta che poi gli acquirenti sono tanti. Per esempio, al presidente Zaccherotto, abbiamo immediatamente ricevuto 2 sms. Uno dice, naturalmente non rivelo il numero per motivi di privacy, a Jesolo sono aumentati i clandestini, noi bagnanti non ci lamentiamo, cara Zaccherotto, compriamo in molti. Allora la mia domanda della vedova è: ma quando c'è un fenomeno così rilevante come questo da molti anni sulle spiagge italiane, poi non è solo sulle spiagge italiane, perché ovviamente i venditori clandestini sono nelle grandi città, un po' dovunque, insomma, e sbaraccano in fretta quando arrivano le forze dell'ordine, regolarmente riappaiono, e questo avviene a Roma, meno a Milano, ma insomma a Roma è abbastanza presente il fenomeno, a Napoli, in tutte le grandi città italiane. Quando è un fenomeno che, per così dire, risponde a delle domande evidenti del mercato, perché poi la gente compra dischi contraffatti e così via, come si deve comportare chi crede nel mercato? In definitiva è un'esigenza reale, e allora? io credo che se le regole vanno rispettate, vanno rispettate in tutti i settori. Noi quest'anno abbiamo voluto partire con questa sperimentazione che si è limitata solamente al periodo di agosto, dando un aiuto nel controllo con il corpo di polizia provinciale. Il prossimo anno vorremmo proprio partire con degli interventi maggiori che consistono anche in una campagna di sensibilizzazione verso chi compra, capendo che comprare merce contraffatta e comprare da chi comunque non rispetta quelle che sono le regole del mercato, si commette un'illegalità. E quindi bisogna cominciare a gestire proprio quello che è il rapporto tra domanda e offerta. Dopo che ci siano delle persone che comunque nel farlo hanno la piena consapevolezza che stanno commettendo un reato, questo purtroppo noi lo sappiamo, ma questo non ci deve esimere nel sensibilizzare le persone affinché si portino a comprare nei luoghi che sono autorizzati alla vendita. Onorevole Della Vedova, lei che pensa da mercatista di questo? Non sono un po' grida manzoniane, visto che la gente poi continua a comprare? Da mercatista e peraltro da figlio di commercianti. Io penso che, certo, il rispetto delle regole va bene per tutto, quindi va bene anche per il commercio e la ristorazione ufficiali, che probabilmente non sempre rispettano al 100% le regole, nemmeno loro, ivi comprese le tasse, gli scontrini, eccetera. Quindi il rispetto delle regole come principio generale va bene, però sulla vendita itinerante, in questo caso nelle spiagge, distinguiamo contraffazione e altro tipo di commercio. I prodotti contraffatti vengono venduti dagli extracomunitari itineranti in misura minima rispetto al volume complessivo, che come si sa in Italia è significativo sia per quanto riguarda il commercio che per quanto riguarda la produzione. Però per tutto il resto, cioè al di là delle merci contraffatte, su cui magari facciamo un discorso a parte, io credo che, visto che questi continuano ad andare, come si è stato detto, è perché c'è una domanda. Io credo che il modo migliore, e non so se le autorizzazioni di cui si parlava poc'anzi sul versante tirrenico vanno in quella direzione, io credo che il modo più lineare, posto che non sono in gioco i destini della nazione, il modo più lineare sarebbe quello di regolarizzare questo tipo di commercio, magari con dei permessi ad hoc stagionali, perché chi ti vende il pareo o l'oggettino in legno nella spiaggia probabilmente non è una cosa che fa tanto danno, le persone che comprano sono contente, poi ci sarà da verificare l'affollamento, il tipo che non sia petulante, il venditore che non sia esistente, ci vorrà qualche regola, però io credo che il modo migliore per uscirne, se davvero si crede che questo sia un problema di sicurezza e di ordine pubblico o di decoro da affrontare, se davvero si crede questo, sia quello di regolarizzare un'attività che c'è, che esiste, che produce benefici per chi vende, ma evidentemente anche per chi compra, che è una caratteristica da decenni della vita delle nostre spiagge. Io insomma cercherei una via di uscita di questo tipo, cioè una regolarizzazione anche ad hoc, anche con dei permessi stagionali, quindi controllo delle merci, denuncia magari redditi forfettari, una cosa di questo tipo, ma l'idea di vietare schierando polizia o esercito francamente rischia di essere una cosa che alla fine non funziona, perché come per tante altre attività illegali o al limite dell'illegalità, come ben sappiamo, non bastano, pensiamo alla prostituzione, tanto per capirci, parlando di cose più serie, con risvolti molto più pericolosi e criminali, anche lì si continua a dire, si continua a aumentare le pene e poi alla fine ci si rende conto che la repressione pura non risolve il problema, per cui io penso che anche lì forse una qualche tipo di regolarizzazione risolverebbe, affronterebbe meglio il problema, a maggior ragione per queste cose che appunto entro dei limiti non destano allarme sociale. negli sms vedo che si apre la forbice delle opinioni. C'è per esempio un sms che dice: ho passato 20 giorni a Porto d'Ascoli in spiaggia, era un assalto continuo di ambulanti extracomunitari, mai alcune autorità è intervenuta, vergogna. E quindi qui c'è una richiesta naturalmente di pugno più di ferro, per così dire. E anche di un altro sms dice: nel basso Lazio non è cambiato nulla in questi anni, sempre di male in peggio. Altri invece dicono: ma perché anziché concentrarci nella lotta ai bucumparà, dare la caccia ai singoli venditori, non cerchiamo i grossisti, cioè chi li alimenta e chi poi porta a casa i maggiori profitti? Sentiamo alcuni ascoltatori che hanno chiamato. Iniziamo da Paolo Darò. Prego Paolo, dica. Buongiorno a tutti. Premetto che non riesco a sentire molto bene il ritorno. Comunque, volevo così citare una mia piccola esperienza, e comunque l'onorevole della Vedova mi ha comunque anticipato su un tema. Volevo dire semplicemente che io ero in Sardegna fino a settimana scorsa. Diciamo che l'integrazione con i cosiddetti venditori ambulanti mi sembrava buona, tant'è che devo dire che uno dei venditori senior è stato immortalato nel video dell'animazione del club dove eravamo, un po' come emblema. Come se fosse una specie di parte integrante dell'offerta turistica locale. Sì, diciamo che ha fatto il classico salutino, perché comunque era il personaggio più folcloristico. E poi semplicemente credo che ci sia anche stato, credo proprio quasi un'interazione con i ragazzi dell'animazione, diciamo il bagnino, comunque erano lì nel cercare di tenere comunque il venditore ambulante fuori dagli ombrelloni. Cioè praticamente ho visto una volta che uno si era addentrato dentro, è arrivato un ragazzo dell'animazione e ha detto: dai, per favore, stai al di fuori. Per cui bene o male non ho visto questi grandi assalti, ma probabilmente in altri luoghi ce ne sono molti di più. Io mi sono anche soffermato sulla stradina che dal club portava alla spiaggia con uno di questi ragazzi, che mi aveva detto che abitava tra le cose a Lecco e che aveva da poco perso il lavoro, lavorava in una grossa azienda, e diceva: d'altra parte sono 6 mesi che faccio questa cosa, perché non riesco a trovare altro. Quindi lei ha trovato insomma un itinerante italiano che aveva perso il lavoro, era italiano, ho capito bene? No, sempre era un immigrante, era un poi c'erano anche italiani, devo dire, c'erano anche italiani itineranti che vendevano prodotti artigianali diversi da quelli che vendevano i senegalesi. Però devo dire, mi sono soffermato anche a parlare, e molto, molto probabilmente io invito magari qualcuno che teme queste persone a fare anche due chiacchiere con Grazie. Questi ragazzi senegalesi. Grazie Paolo. Camillo da Cortona, prego Camillo. Pronto? Ci sente? Sì, prego. Sì. Dica. Rapido, rapido e breve, se ce la fa. Prego Camillo. Ma volevo soltanto capire come fanno i vigili urbani a sapere se sono contraffatti certi materiali o no, o certe borse in pelle, la pelle di chi li vende o la pelle di quella che viene esposta. Cioè, non capisco come fanno a capire i vigili urbani se la roba è contraffatta, soltanto perché la vendono abusivamente. Questo è vero. Però bisogna cominciare dai negozi italiani, specialmente da questi grandi stockhouse che comprano a metri cubi, li rivendono a pezzo e lì ci mischiano d'ogni ben di Dio. Cioè lei dice la contraffazione non c'è solo nelle spiagge, ma c'è dovunque in Italia, questo è quello che dice lei, mi pare di aver capito. Per esperienza diretta le dico che c'avevo un amico che vendeva 35.000 euro di una nota marca di jeans nei negozi regolari. Ne compravano 5.000 regolari e 10.000 non regolari. Quindi insomma il problema della contraffazione. Grazie Camillo. Rita Fateguso, innanzitutto nella telefonata di Paolo Darò ha fatto capolino un tema che tu avevi appena trattato in uno dei tuoi articoli, e cioè il fatto che emergesse davvero nelle spiagge italiane questa nuova figura, cioè dell'immigrato che era integrato nel lavoro italiano, nei processi produttivi, ma essendo espulso come tanti altri che perdono il lavoro da settembre dell'anno scorso, quest'anno per così dire, in attesa di capire come va l'occupazione ufficiale, si ricicla come itinerante. E Paolo ci ha chiamato, non ci siamo messi d'accordo, e conferma che il fenomeno esiste, ma è un fenomeno di colore, oppure al di là di tutto, tu che li osservi di anno in anno, che tipo di cambiamento c'è stato di questa figura dell'itinerante immigrato molto spesso clandestino e poi magari regolarizzato? Tu come l'hai vista cambiare? questi anni? Beh, è tutto il fenomeno che in effetti sta cambiando proprio sulla spinta della crisi, perché in effetti andando a Rimini ci siamo resi conto, e ce l'hanno confermato anche le autorità comunali che più di me hanno sotto controllo questo fenomeno, essendo assillate, no? Ogni estate, come appunto la Presidente anche della provincia ha dimostrato. Io su questo sono d'accordo che è una cosa abbastanza antipatica e anche da gestire per questi comuni che devono appunto dare il meglio di sé in estate, poi alla fine si ritrovano a fare guardie e ladri e non è in mezzo alle dune. Però il fenomeno sta cambiando perché appunto c'è tantissimi immigrati sempre della stessa zona, quindi nemmeno che vengano direttamente dalle scialuppe nel Mediterraneo, si trovano a perdere il lavoro e quindi si riconvertono, cioè una specie di caduta verso il basso, si riconvertono a diciamo attività che sono illegali e quindi la maggior parte a Rimini, dove io ero stata un mese fa, sono tutte quanti col permesso di soggiorno, quindi c'è poco da contestare, anzi per i vigili la cosa peggiore, e me l'hanno confessato, è trovare un clandestino, perché vuol dire che ci devono perdere almeno 2 giorni dietro per i controlli, per applicare anche la nuova nuovo testo della sicurezza. Seconda cosa, la contraffazione aumenta in tempi di crisi, quindi sicuramente anche la propensione all'acquisto da parte anche la domanda di cui si parlava prima è in vertiginoso aumento, e si capisce perché. Chiaramente nessuno vuole perdere alcuni status symbol, anche la borsetta che sembra vera, e quindi c'è una maggiore tendenza a alimentare un mercato che invece è assolutamente più forte di prima, perché chiaramente c'è tutta una filiera di cui è anche l'ambulante è l'ultima, è il terminale, l'ammonte. C'è questa grandissima organizzazione ramificata a livello appunto mondiale e che recluta anche, come diceva l'ascoltatore prima, persone tra virgolette normali, che non diresti mai, perché in effetti è un fiume classico con tanti rivoli dappertutto, che appunto gioca appunto sulla differenza, sul valore aggiunto tra i costi e quello che poi sono i ricavi, e sono una forbice francamente enorme. Si moltiplicano gli sms che arrivano di tono diverso, però ne sono arrivati diversi da Jesolo invece in appoggio al presidente della provincia Zaccariotto, perché dicono il fenomeno, sono evidentemente commercianti, dicono il fenomeno continua a danneggiarci, quindi è per questo che abbiamo chiesto un aumento del contrasto. Altri bagnanti sempre da Jesolo invece dicono il fenomeno è meno rilevante che in passato, quindi evidentemente come sempre sono fenomeni su cui la percezione individuale e anche magari il tipo di bagni che si frequenta, di stabilimenti balneari, rende il fenomeno più o meno diverso. Altri messaggi invece, in questo caso la Riviera Romagnola: perché devo passare la mia giornata al mare continuamente a dire di no agli ambulanti? E altri invece che sostengono che il fenomeno delle vendite contraffatte in spiaggia è pressoché irrilevante, o comunque molto minore di quanto non sia il fenomeno della contraffazione nel sistema della grande distribuzione commerciale italiana, soprattutto nel vestiario e marchi della moda e della pelletteria. Ancora Jesolo: non lavoro nel settore commercianti, ma vedo benissimo che gli abusivi danneggiano il mercato. Insomma, li abbiamo un po' scatenati le reazioni da Jesolo. Presidente Zaccariotto, lei che pensa di questa idea di procedere poi a una regolarizzazione a tempo, una volta che innanzitutto si fa il contrasto iniziale, ma poi nel tempo è un modello da perseguire secondo lei, quello dei permessi come nel demanio marittimo, come ci spiegava il suo collega sul versante invece della Versilia? Sì, al di là che credo che sono delle riflessioni che vengono fatte assolutamente insieme ai sindaci, per quello che mi riguarda io credo che, visto che si parla di crisi, va assolutamente detto che, come lo sappiamo, il commercio sta altresì vivendo un momento di grande crisi, quindi parlare di nuove autorizzazioni, nuove licenze, nuovi luoghi dove poter vendere dei prodotti, io credo che in località proprio come quelle che vivono della stagionalità aumentare in maniera significativa, perché di numeri si parla, non è che con 3, 4, 10 autorizzazioni noi risolviamo il problema, assolutamente no. Io credo che significherebbe mettere ancora più in ginocchio un settore come quello del commercio, che va affrontato al pari di tanti altri settori che vivono queste difficoltà. Io rimango dell'idea che c'è un luogo dove poter vendere, un luogo dove poter acquistare, e che quindi questo fenomeno che si è mosso nella illegalità, perché questo è, e che genera anche una serie di problemi di sicurezza in ogni luogo dove si presenza, dalle spiagge piuttosto, io faccio riferimento a questo problema ad esempio nel centro storico di Venezia, credo che è un fenomeno che va assolutamente contrastato con delle forme di controllo e di regole, e quindi non deve essere autorizzato. Allora, ancora un paio di ascoltatori prima di tornare ai nostri ospiti. Agostino da Padova, prego Agostino, dica. Pronto, sì. Mi sente? La sento bene, dica pure. Buongiorno, Agostino da Padova. Io vorrei così porre l'accento soprattutto sulle regole, no? Noi siamo una società civile e ci siamo dati delle regole e continuiamo a legiferare per darne delle altre. Sì, allora, la interrompo solo per dire, e spesso siamo noti per non rispettarle noi italiani, tutte queste regole che ci diamo, un po' troppe. Mi scusi l'inciso, prego, continui. Ecco, allora io sono un imprenditore, un'azienda. Allora io devo rispettare una montagna di regole, una montagna di adempimenti, eccetera. Un commerciante che deve iniziare un'attività deve iscriversi la partita IVA, dopo fare una serie di visite, e una serie di compilare tutta una serie di moduli, modulistica, eccetera, che lo mettono in regola, si dice, no? Ecco. E poi comincia a fare la sua attività, fatture, non fatture, eccetera. Non capisco perché in Italia ogni volta ci deve essere qualcuno che deve avere delle deroghe, e cioè quello poverino è perché è extracomunitario, l'altro perché ha perso il posto di lavoro, l'altro perché, non so, un altro motivo. Chiarissimo. Allora, ecco. Lei allora, dice, io operatore regolare ho una lista di adempimenti da fare, e loro invece state facendo capire anche un po' con la trasmissione che loro invece bisogna andargli incontro. In no, perché se tutti facciamo così, allora il barista non fa più lo scontrino perché chiarissimo, non ha voglia. Chiarissimo. L'idraulico non fa più la fattura. E quello che va a rubare in banca dice ci vado perché ho perso il posto di lavoro, cosa devo fare? No, è capito? Chiaro, ma non esageriamo, adesso non arriviamo a questo. La ringrazio Agostino. Ermanno da Modena, prego. Ermanno da Carpi, provincia di Modena. Sì. Dunque io, e la famosa località in cui la settimana scorsa due turisti da Amburgo sono arrivati pensando che fosse Capri, perché avevano messo nel loro tom-tom, avevano sbagliato a digitare, e sono andati all'ufficio provinciale del turismo a Carpi dicendo ma dov'è il traghetto qua? Voglio dire, lo dico solo perché d'estate capitano cose anche di questo genere. Prego Ermanno. Sì, questa è la capitale del tessile abbigliamento, quindi è ancora più scontato che loro danneggiano questo settore. Ma io stamattina ho chiamato perché mi sembra che i vostri ospiti siano lontano dal problema. Qui sento una moderazione quasi con il non conoscere il problema. Ma la Riviera Adriatica in questi 4 mesi di turismo è addirittura l'inferno sulla terra. Io vado a Riccione dal 5 luglio al 5 agosto. Tutti gli anni mi trovo ad aver, prendo un lettino fronte mare, tutti gli anni mi trovo a dover litigare con questa gente abusiva, prepotente, violenta, e più di una volta sono arrivati a sfiorare le mani. Gli stessi bagnanti o gli stessi concessionari della licenza dei concessionari degli ombrelloni sono stati minacciati, e soltanto il comune di Riccione è riuscito negli ultimi 5 anni con la polizia municipale e la capitaneria di porto e polizia di stato a tenere finalmente l'arenile completamente libero. Quindi politicamente, quando si vuole fare una cosa, ci si riesce. Io dal mio albergo vedo che alle 6 incomincia a passare una Land Rover che fa i primi 400 metri e una seconda bel cambio fino al confine con Misano Adriatico. Quindi adesso la spiaggia di Riccione, grazie al sindaco precedente, è completamente libera, perché avevo giurato che non sarei mai più andato a Riccione. Grazie Ermanno. Lei mi pare di capire che dice Riccione sì e Rimini e tutti gli altri no, perché ha un'esperienza diretta di tutti, o solo perché va a Riccione? Comunque è una domanda alla quale presto daremo risposta, perché tra poco ci raggiunge in collegamento il sindaco di Rimini, Alberto Ravaioli. Una domanda per Della Vedova. Gli ascoltatori ci dicono: c'è come al solito il problema, i commercianti in regola con la licenza, noi chiediamo mucchio di adempimenti fiscali, amministrativi, burocratici, eccetera, eccetera, e invece tendiamo poi a essere comprensivi verso fenomeni come gli abusivi sulle spiagge. La mia ricetta sarebbe meno regole per tutti, a cominciare anche da quelli in regola. Tu naturalmente, in teoria so che lei è d'accordo, in pratica poi è anche parlamentare, deve mettere insieme insomma un po' di è facile dirlo come faccio io facendo il giornalista, è un po' più difficile quando ci si trova di fronte poi al problema dell'ordinamento legislativo che deve essere coerente. E quindi come si può fare da questo punto di vista? Stiamo peccando per eccesso di comprensione secondo lei oggi? Credo che si debba comprendere il fenomeno per quello che è. Io tra l'altro anch'io in questo momento sono sulla riviera Adriatica vicino a Fano, e sulle spiagge di Fano non c'è un assalto, forse appunto l'assalto sarà più a nord, ma sicuramente i commercianti hanno ragione, come tutti gli imprenditori italiani, a lamentare un eccesso di regole, di burocrazia, è un eccesso fiscale sia dal punto di vista della quantità di tasse che si pagano quando si pagano naturalmente e sia dal tempo che bisogna passare per fare tutti gli adempimenti che servono per pagare le tasse, quindi questo è un problema, però io non credo che nemmeno nell'ambito del fenomeno della contraffazione, ancorché più visibili i venditori itineranti, WooCompare, extracomunitari, chiamiamoli come vogliamo, anche nell'ambito del mercato della contraffazione, rappresentano una cifra del tutto marginale, perché oggi c'è internet, c'è la criminalità che introduce nei circuiti tradizionali le merci contraffatte, proprio quelle copiate, non la borsa Vuitton comprata per strada che si capisce che è taroccata, insomma. Quindi certo è un fenomeno visibile quello della vendita itinerante degli extracomunitari, fastidioso, ma io credo che nemmeno per i commercianti della riviera, delle riviere, il vero problema in termini quantitativi sia il problema della vendita itinerante sulle spiagge. Per cui quello che io dicevo inizialmente, cioè l'idea di individuare dei percorsi di regolarizzazione, ha due effetti, secondo me. Quello appunto di dare una forma civile, regolare a un fenomeno che altrimenti non si riuscirebbe, secondo me, nemmeno a... Certo, magari un anno su una spiaggia si riesce investendo un sacco di soldi pubblici, schierando le guardie, schierando l'esercito, magari per un anno riesci a eliminarlo. Ma siccome c'è la domanda, credo che in via definitiva non lo si sradichi. Per cui lo regolarizziamo, e se lo regolarizziamo trovando delle formule anche intelligenti, discutendo anche con gli altri commercianti della riviera, definendo anche le categorie merceologiche, se lo regolarizziamo sarà molto più possibile e credibile la repressione di tutto quello che resta fuori dalla possibilità di regolarizzazione. Una cosa che vale un po' in generale anche per il lavoro degli immigrati, insomma, cioè regolarizzare quelli che lavorano è il modo per rendere più credibile la repressione dei fenomeni che destano allarme sociale, che sconfinano nella criminalità. Nel frattempo abbiamo pescato a telefono, lo ringraziamo di questo perché aveva una mattinata un po' impegnata, il sindaco di Rimini, Alberto Ravaioli. Buongiorno sindaco Ravaioli. Buongiorno carissimo. Ecco, hai sentito gli ascoltatori prima, alcuni ascoltatori, tra cui uno da Modena, Ermanno, ci hanno testimoniato che a Riccione sì che c'è stata una vera strategia di contrasto, dopo che molti di loro avevano fatto presente all'amministrazione comunale che non sarebbero più tornati di fronte all'insistenza di questo fenomeno così molesto. Adesso io lo dico apposta per punzecchiare: a Riccione sì, a Rimini no, adesso al di là di tutto, ma lei come si regola? Perché lei, ho visto dichiarazioni sue un po' combattive, insomma, di quelle oggi non stiamo parlando di politiche di partiti politici di appartenenza, perché come solito andiamo al merito del problema, però l'ho vista di quelle un po' scaldati su questo fronte. Beh no, scaldato, il tema è molto chiaro: Riccione ha 1 chilometro di spiaggia, Rimini ne ha 15. Quindi per quel che riguarda la nostra realtà è più difficile combattere il fenomeno, e debbo con molta franchezza dire che fino a un anno fa, forse quest'anno è il primo anno in cui vediamo veramente lo Stato impegnato con noi a combattere questo fenomeno. No, ma faccia capire però, lei così, dicendo così, dice lo Stato si è impegnato quest'anno, ma prima l'amministrazione, l'amministrazione era impegnata con i servizi urbani sulle spiagge o no? Certamente, noi mettiamo tutti gli anni 25 persone per combattere il fenomeno, 25 vigili urbani particolarmente addestrati, ma 15 chilometri di spiaggia sono lunghissimi e da tempo chiedevamo anche le altre forze dello Stato, la Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, di aiutare la pubblica amministrazione a combattere questo fenomeno dell'abusivismo che noi non vogliamo. E quest'anno direi che è la prima volta in cui registriamo un consenso vero attorno a questo problema, e credo di poter dire che quest'anno i primi risultati, anche gli anni scorsi ce n'erano stati, ma quest'anno ancora più evidenti, e credo che nei prossimi anni il fenomeno scomparirà anche da Rimini. Un secondo, signor Sindaco, la interrompo perché poi dobbiamo salutare il presidente della provincia di Venezia che stiamo tenendo incollato dall'inizio della trasmissione, e mi scuso con lei perché io vado un po' random con le domande. Le posso fare, presidente Zaccariotto, una domanda esplicita? Secondo lei, le associazioni di cittadini che secondo la nuova norma sulla sicurezza coopereranno con le forze dell'ordine eccetera eccetera, quelle che impropriamente passano nella comunicazione pubblica come ronde, ecco, un fenomeno come le ronde, questa nuova realtà, noi siamo poco abituati in Italia alla società civile che si auto-organizza e dà una mano allo Stato, quindi è una cosa che ci preoccupa. Io sono meno preoccupato di questo, ma secondo lei può dare una mano anche al contrasto di questo fenomeno, questo tipo di associazione di cittadini? Lei che pensa, presidente Zaccariotto? Io quello che percepisco dai miei cittadini quando mi segnalano il loro problema relativamente alla sicurezza è che se vedono dei gruppi, in questo caso un gruppo, un'associazione di persone che è presente nel territorio e chiaramente identificabile come un'associazione che ha proprio la finalità di favorire il controllo attraverso l'organizzazione che gli permette poi di segnalare eventuali situazioni a rischio, io le colgo e i cittadini le colgono positivamente, perché sapere che qualcuno è vicino a noi affinché il nostro territorio sia più controllabile, questo non può che dare un segnale di sicurezza e non, per quel che mi riguarda, di preoccupazione. Eccoci per quest'ultima parte, la versione di Oscar di oggi, pre-ferragostana, dedicata al fenomeno dei venditori clandestini itineranti, se non in regola coi permessi sulle spiagge italiane, a vedere come, se questo fenomeno è cambiato. Fino a questo momento in realtà non c'è una conclusione univoca, c'è chi dice che è come prima, c'è chi dice che è aumentato anche per effetto della crisi, ci sono voci diverse da parte delle amministrazioni locali, la parte più calda, cioè quella del versante adriatico e quella della Versilia, che insomma però testimoniano che c'è un approccio un po' diverso rispetto al passato, più impegno da parte dello Stato, i comuni non ce la fanno in prima linea con troppi pochi uomini da destinare a questo fine. Mi pare che non sia un quadro troppo preoccupante. Rita Fatiguso, tu che segui di anno in anno questa vicenda, come la leghi in ordine di proporzione, di gravità, al fenomeno della contraffazione? Perché la mia impressione è che in realtà chi dice che la vera radice della contraffazione è l'importanza economica della contraffazione, il danno che provoca a chi è in regola e alle produzioni italiane, la parte più rilevante non è certo quella dei Vucumpra, è quella che occupa fette molto ampie stabilmente della distribuzione commerciale. Tu che impressione hai in questi anni in cui la strategia anticontraffazione a parole è diventata molto rilevante negli impegni delle autorità? Secondo te in realtà gli effetti poi sono cresciuti oppure no, Rita? Ma le stesse analisi, mi riferisco al sindaco di Rimini, che spero che sia ancora in collegamento, dimostrano che è solo una parte delle merci sequestrate la parte contraffatta, e questo discorso si estende sempre di più, come appunto tu dicevi, in anno in anno, queste rilevazioni al trend del fenomeno. Perché questo? Perché sostanzialmente poi il fenomeno è molto più vasto di quanto non possa, parlo della contraffazione, riguardare i Vucumprà. Come dicevo prima, loro sono sempre e soltanto l'ultimo anello, il terminale, cioè quelli che praticamente fanno il lavoro veramente sporco, e se lo fanno, non lo fanno solo, cioè non è che vendano soltanto materiale falso, per cui bisognerebbe anche, come non fanno altro che ricordare sempre quelli che se ne occupano, anche i rappresentanti delle imprese, in particolare in questo momento Carlo Guglielmi è la persona che per Confindustria, quindi per tutte le industrie e aziende italiane, sta seguendo molto questo fenomeno. Bisogna educare a non comprare materiale. Io non ho sentito da nessuno degli interventi di oggi, mi spiace doverlo dire, anche la stessa presidente della provincia, che in realtà comprare merce che non è legale è qualcosa di che non va fatto. Ecco, l'educazione civica anche a questa cosa non è un tema che mi sembra, non vorrei cambiare adesso. No, ma infatti questa è una componente, perché siccome contraffazione, purtroppo sai com'è, il compratore di solito tende ad andare al prezzo più basso, quello anche dove la qualità è più bassa, ma dice mi soddisfo così. Questo ma l'ho detto anche io prima, che in tempi di crisi alla fine, cioè, uno tende a comprare anche di più semmai, però dico, come educazione alla legalità generalizzata, per cui anche il fatto di informare in maniera molto tranquilla che se tu compri qualcosa fuori dai circuiti legali non è una cosa che è anche il perché in realtà poi dopo bisogna anche capire tutte le organizzazioni criminali, c'era uno degli ascoltatori che è intervenuto, appunto l'ha detto chiaramente, alimenta sia il circuito legale che quello illegale, la storia dei pantaloni, no, mischiati, per cui una quota di pantaloni buoni e una parte di pantaloni falsi. Quindi è veramente quel film carsico di cui parlavo prima. Se non approfittiamo anche della parentesi estiva per lanciare questo messaggio, mi sembra che il discorso sia affrontato in maniera molto parziale. Abbiamo un altro ascoltatore, Aldo da Como. Prego, Aldo. Sì, buongiorno. Lei è al mare, è stato al mare, non va al mare, qual è la sua esperienza? Dunque, io ringrazio innanzitutto per questo produttivo. Prego, andiamo al dunque. Sono rientrato una settimana fa da Marina di Camerota, nel Cilento, posto incantevole che visito da tantissimi anni, e posso aggiungere che non è cambiato assolutamente nulla per i venditori ambulanti, anzi forse c'è stato un incremento. Sono diventati più fastidiosi, più arroganti di prima, si può comprare dai tamburi oggetti africani, da persone che vengono dall'Africa, dal centro dell'Africa direi, poi si può comprare vestiti, pantaloni, pantaloncini, roba taroccata e non taroccata, perché ci sono anche cose che non hanno nessun nome, nessuna marca, si può poi comprare... L'ampia panoplia, ma ci è noto, però lei dice il fenomeno, in realtà lei l'ha visto aggravarsi rispetto agli anni in cui andava nello stesso posto. Sì, aggiungo che i cinesi che fanno i massaggi sulle spiagge sono lì imperterriti e la giunta comunale non fa assolutamente nulla. Grazie Aldo da Como, poi abbiamo Aldo da Trieste. Prego Aldo da Trieste, la sua esperienza invece qual è quest'anno rispetto ai precedenti? Buongiorno, no, quest'anno no, non sono ancora andato in ferie, sto ancora lavorando. Si riferisce a 2 o 3 anni fa, è un episodio simpatico, senza dire la regione, il posto, per non creare così. Eravamo al bagno della polizia, ospiti di un amico. Prima del bagno della polizia c'era il bagno dei carabinieri, dopo il bagno della polizia e il bagno della finanza, il Vucumprà tranquillamente andava avanti e indietro e nessuno diceva niente. Lei ci restituisce un'immagine all'Alberto Sordi, per così dire, del nostro... Dovrebbe essere più controllato di là, ma nessuno assolutamente gli diceva niente. I tipi erano tranquilli, per l'amor del cielo non erano né arroganti né niente, però... Punto. La cosa l'ha impressionata, per così... lei non può pretendere che le mogli dei carabinieri o le figlie dei carabinieri intervengano. Comunque sono poliziotti, sono finanzieri, sono carabinieri. No, questo l'ho capito chiaramente. Però questo ci restituisce la dimensione da cui ero partito, e su questo io devo chiedere ancora una riflessione sia a Rita Fattiguso che a Benedetto Della Vedova. C'è anche una questione politica della faccenda. Io non chiedo giudizi politici, però noi abbiamo sentito in questa trasmissione sindaci come il sindaco di San Vincenzo, Michele Biagi, i sindaci come il sindaco di Rimini, Alberto Ravaioli, sono sindaci che non è una questione rispetto ai temi che abbiamo trattato, ma insomma sono sindaci espressi dalla sinistra. Abbiamo avuto un presidente della provincia di Venezia appena eletto che è espressione del centrodestra. Effettivamente i toni espressi dagli amministratori del centro-sinistra non sono poi molto diversi da quelli del centrodestra, magari hanno un approccio, diciamo così, più articolato di regolarizzazione nel tempo e così via rispetto al centrodestra che punta più al contrasto. Però effettivamente temo che in qualche misura, e questa è la mia domanda alla Fattiguso e poi a Della Vedova, conta forse il fatto che noi per troppi anni abbiamo stentato a imboccare la strada del contrasto, proprio perché alla fine il Vucum Pra ispirava il buonismo, perché come si fa a applicare le sanzioni così pesanti, quindi a quel punto inutili, delle leggi? Rita, tu che impressione hai? Non siamo figli di questa incertezza culturale, anche politica, nei primi anni in cui l'immigrazione ci è esplosa sotto le mani? Ma sì, perché essendo una nazione impreparata, una nazione storicamente di migranti, a accogliere appunto gente che veniva a trovare, come dire, così, ragioni di vita e sopravvivenza nel nostro paese, siamo rimasti abbastanza, come dire, all'inizio sembravamo veramente un fenomeno folcloristico, e poi anche un modo anche per tenerlo sotto controllo psicologicamente, no? Perché è qualcosa di più, anche un modo di gestirlo emotivamente meno. Quando poi effettivamente è arrivato a livelli di guardia, e a quel punto quello che tu definisci giustamente buonismo, però effettivamente è anche vero che è difficile gestire anche la parte, e qua i sindaci penso che lo sappiano bene, gestire la parte poliziesca, se vogliamo, cioè sulle spiagge dove ci sono dei bambini, dove se tu vai con un 4x4 di questi mastodonti a pattugliare, rischi di travolgere vecchi bambini, cioè non è facile, una cosa certo. Veramente allucinante, e quindi o è un posto dove uno va a rilassarsi oppure diventa un fortino di guerra. Ecco, questo teniamolo ben presente. Grazie, non grazie. Non arrivare agli eccessi. Grazie Rita. All'onorevole Della Vedova una riflessione conclusiva chiedo invece, che ha a che vedere con le polemiche puntualmente riesplose, con le norme sulla sicurezza appena approvate dal Parlamento. Per l'impressione che hai, siamo sulla strada di una consapevolezza maggiore che tende a usare toni meno duri per fare propaganda politica contrapposta alle classiche accuse alla destra, da parte della sinistra, di volere la propaganda in nome della sicurezza, e alla sinistra, la parte della destra di essere troppo buonista? Ma ci stiamo creando poco a poco un'atmosfera di convergenza e condivisione per poche norme efficaci invece che tante chiacchiere e leggi nuove ogni volta che cambiano le maggioranze, oppure no, secondo te, da questo punto di vista? Che impressione hai? Allora, se devo dire la verità, finora no, finora secondo me è prevalso l'aspetto ideologico del messaggio politico forte che lavora sull'emotività e sulla paura. Però io spero che, incassato il pacchetto sicurezza, che è un pacchetto robusto anche in una chiave di manifesto, si torni su un piano più pragmatico anche sul tema che abbiamo trattato oggi. Io non credo che sia questione di buonisti, cattivisti, chi è a favore delle regole, chi è contro le regole, però bisogna fare i conti anche con la realtà e definire anche un ambito di priorità. Perché la repressione di qualsiasi fenomeno criminale ha un costo rilevante, e quindi siccome l'Italia sappiamo tutti com'è fatta e i chilometri di spiaggia sappiamo quanti sono, è chiaro che bisogna anche fare una scala di priorità. Quali sono i fenomeni di irregolarità o di delinquenza, chiamiamolo come vogliamo, sui quali investire prioritariamente? Perché sono soldi pubblici, sono tasse anche quelle dei vigili urbani che pattugliano le spiagge. Quindi io credo che la via della si va per approcci successivi. Introdurre un elemento di regolarizzazione, di legalizzazione sia la via migliore. Stiamo attenti anche nelle quantificazioni, per cui non pensiamo che il fenomeno della contraffazione corrisponda a quello che vediamo nelle spiagge con i venditori. Voglio chiudere su due altri aspetti. ci sono altri fenomeni molto più gravi, prostituzione, droga, il cui allarme sociale è evidentemente maggiore, su cui si investe tantissimo per la repressione, che non si riescono a sconfiggere ancora, non solo in Italia ma nel mondo, con le armi della repressione. Sul commercio, e chiudo su questo, teniamo presente poi che c'è anche in una parte consistente della popolazione balneare anche un dato di benevolenza che rende ancora più difficile intervenire mano militare. E infatti io devo interromperti perché oramai il tempo è tiranno e stiamo andando alla fine, e infatti di solito tutte le estati qualche episodio di cronaca di sostegno e solidarietà, cioè di intervento dei bagnanti a favore del clandestino itinerante che commerciava prodotti un po' così, c'era regolarmente contro le forze dell'ordine. Quest'anno non ancora, all'inizio della stagione però ce ne sono stati due in Liguria. Detto questo, abbiamo fatto una riflessione al di fuori dei toni gridati, io preferisco così, questa è la versione di Oscar e questo è il vostro e il nostro stile di Radio 24. Io chiudo la trasmissione di oggi, vi do appuntamento personalmente con al 7 settembre perché c'è la pausa di 3 settimane di conduzione, ma ci sarà il direttore Fabio a sostituirmi, e ringrazio per oggi Giorgio Mattei in regia e Alessandro Marco Turli in redazione. Quindi ci sentiamo il 7 di settembre. Chi volesse tenere contatto con me può farlo con il www.chicago-blog.it. Grazie, arrivederci, Alina Generale Radio.